ma compa, dice, ma quello ebbene Antonito, oh, che bella giornata. Tra poco devo andare in farmacia a fare la spesa. Quindi sei a posto. Capito, la spesa ormai non si fa più al coso, si fa in farmacia. Purtroppo, in bezzende tutti. In farmacia meno di 15 euro, ma sei tranquillo, non prende un cazzo. Come è capitato a me, quindi a un certo punto ti devi preparare, se c'hai 5 o 6 medicinali, 15, 30, eccetera, eccetera. E così andando avanti. Meno di 15 euro non ce n'è, anzi, salgono a 20, 22. Ah, ci vuole pazienza. Pazienza. E ci vuole portafoglio, ci vuole una cosa di pazienza. Pazienza e portafogli, certo, se non hai tanto portafogli devi avere più pazienza in proporzione. Sì, quello sì, cioè è giusto. Guarda, a un certo punto conviene, se avevano fatto una legge per vendere i medicinali alla, al supermercato l'avresti pagati di meno, questo è poco ma sicuro, invece non è passata ancora. Sarebbero costati ancora di meno, invece purtroppo è così. E sai cos'è? Certi farmaci sono, come dire, roba più delicata, lo deve vendere il farmacista, dare consigli anche. In farmacia e Simona, quattro specie di yogurt, come vuoi chiamare, tu, che c'ha tutto dentro, eccetera, tutte le vitamine, eccetera, eccetera, quattro yogurt, 20 euro. Cazzo, Giurito. Sono rimasto secco, ascolti, faccio una cosa, ho detto. E prendo questi quattro, gli ho detto, e poi ho detto al supermercato me li prendo, gli ho detto, in pastiglie che è meglio, e sono andato al Conad, sono andato, me li ho controllati tutti nel reparto farmacia, e c'era la stessa identica cosa in pastiglie, 9 euro. Ma cosa contenevano in particolare? Fermenti lattici, roba del genere? No, non erano fermenti lattici, più che altro vitamina B, vitamina ferro, eccetera, eccetera. Hai capito? Tutte vitamine, una presa all'altra, cazzo. Quindi, ho pigliato due pacchi. Ho preso anche la vitamina B12 e quindi ho risparmiato, cazzo, ce la faccio, cazzo, cioè su quel frusta devo pigliarne, cazzo, in pratica uno al giorno va a pigliarne, cazzo, 20 euro, uno al giorno sono 4, sono 2 giorni, 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, eccetera, cazzo, mi serve, cazzo, costato, cazzo, minimo, cazzo, 800 euro, ma stavo scherzando, cazzo. Sì, infatti, guarda, le cose che puoi trovare anche al discount si possono prendere. Al discount, per esempio, trovi sali minerali, tipo il finto polaseno, sali minerali, cioè potassio, magnesio, trovi il complesso plurivitaminico. Noi prendiamo quelle del pasticcone da sciogliere nell'acqua, che sa di arancia, prendiamo il ferro, le compresse di ferro per mamma più che altro, per quella cosa che aveva avuto. Certe cose le puoi trovare anche lì, però certe cose più delicate, vabbè, in farmacia per forza. Vabbè, per il ferro ci sono delle pastiglie che tirano la farmacia, sono mutuabili e non costano niente, quindi a un certo punto, infatti gli ho tolto, perché faceva la caccanea, quando c'è il ferro fa il coso, hai capito? Nero lo fai. Quindi a un certo punto gli ho eliminato e gli ho dato quelle altre pastiglie, gli ho dato. Adesso, grazie a Dio, non ce l'ha più quel colore lì e la fa normale. Ehi, ehi, mi pare anche mangiando spinaci, perché contengono ferro. La fa in boscura e sul verde, verde scuro. Esatto, sì. Vabbè, nel caso basato alle casa al supermercato, ma al supermercato già lo sai che è preso dalla farmacia a un certo punto. Devi fare una scelta, per i farmaci, oppure ti paghi per dire 4 mele, la stessa identica cosa a casa dal 4 mele, 4 pere, 4 cose, eccetera, eccetera, 4 4 con l'altra, eccetera, ti dura 2 giorni, non di più. A parte che dallo spin di qui le pere sono dure come cosa, ci vuole no, come si chiama là? Ci vuole una motosega, ci vuole per poter tagliare. A seconda di che pere sono, caspita, io mai manco col coltello le tagliavi, facevano croc, probabilmente erano crude ancora, o era la varietà. A me piacciono quelle pere succose che si sciolgono in acqua in bocca, capito? Quelle dolci dolci. E quello deve aspettare un mese, deve aspettare, incazzo. Immaginati che ha assaggiato una l'intera l'altro giorno. Grazie a Dio, è passato un mese, è passato, da quando le ho comprate. Ma che pare, cazzo, che io compro, cazzo, le mele, pere, cose del genere, cazzo, le... vabbè, mica posso frullarle, no? Sei un casino, cazzo, hai capito? Quindi a un certo punto sono dure come una balla, sono. E poi buttano in testa uno, o se fanno una, non si fa. Eia, qua ti volevo dire, boh, porcaccia la miseria, mi sfugge, boh, qualcosa inerente a elettronica, no, boh, vabbè, mi verrà in mente, a breve vado io, Oppure, mi sente? Eia, d'accordo, vabbè, tu controlla comunque quella affare che ti ho detto io al telefono. Marco da questa parte, qui sei Santiago 7, Santiago 7 Radio 3, vediamo se Antonello ti copia. Assolutamente. Ma cioè non lo copi? Ai ai ai, Pomponio ha perso il primato, in alto e non intendi nulla. Cristian, dove ti trovi? Sono a Budi Budi e Barra Mobile. Budi Budi Barra Mobile, Antonè. Probabilmente coincide con una zona d'ombra con te, dai, proprio un punto specifico. Quindi Cristian, qui Santiago 7, Radio 3, capibile. beh, la propagazione, prima non vinnera, come inizia a parlare arriva la propagazione. Propagazione, sono attaccato, capito? Sono fatto un linearino, bisogna sottofarlo. Ah, sì, anche attaccato, caspita, vabbè, io sono negativo per la Budibudi, sono proprio in zona chiusa per la Budibudi, però bene o male arrivi, dai, finché non c'è belame di propagazione. Antone, cosa ti volevo chiedere, Antone, ma la gente di Alghero sta entrando in radio? Sì, che sta entrando in radio, a metà sì, sta entrando in radio, e ovvia, su canale a volte 20, 28, a volte su 15, sul 14, eccetera, eccetera, non capito. Mi sta entrando con qualcuno, anche forse più di uno, quindi ci sono un sacco di nominativi, ci sono, hai capito? Anche gli arrivatori mi stanno entrando, di Alghero. C'è stato Giorgione, figurati tu. Sì, perché io ho dato un'occhiata magari ogni tanto 14, 15, però proprio lì. Proprio lì non sentivo nessuno, non ho provato sui canali alti, lì 28, no, non ci sono arrivato. No, per fare per avere dei segnali, no, dare il segnale a loro, vedere come arrivo io, perché l'antenna sì, è integra, però sarà un po' ossidata, invecchiata, no, in 11 anni, presumo. Comunque sa che gente sta aspettando di quelle antenne, di quelle, come si dice, che faceva Luca qua, se stanno andato costruendo, se ne stanno, io ho visto che escono bene, non ho notato altro che prendere lo schema e costruirselo da soli. Cristian è fermo, se si è spostato dalla zona d'ombra. Attenzione Cristian, o si è allontanato dalla macchina, Antonio, non sento più parlare. Non sento neanche io, la verità. Aspetta che mi chiama mamma, Antonio, dai, chi... Ah, ecco, per fesserie mi sta chiamando, aspetta, arrivo subito. D'accordo, ok. Oh, per ogni sciabidura mi chiama, anche non urgente. Mamma mia, allucinante. Vuole parlare, già lo sai in che condizione sono io. Io la vedo, ce la sono girando in casa a questo punto. Ehi, Antonio, adesso la farmacia è aperta, credo, io devo andare. E ci sentiamo quando capita, non so se rientrerò dopo però, Vabbè, tanto sono qua a casa, non è che devo andare in su posto. Al limite, penso che sei, che non ho già buono, faccio quei furi che devo fare e poi sono tranquillo. Ma non per me faccio una passeggiata da Alcalá, che mi serve, un, come si chiama, mi serve delle cose per Simona, e gli hamburger di cavallo, 6, 6 e mezzo. Babbo, ciao Antonello, ci sentiamo. Ciao, a dopo ci sentiamo, da. Senti, se non avete pazienza non cambia niente. Infatti non cambia niente. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.